osservo col furor di petti osservo l'ostinato cor superbo l'ostinato cor superbo dell'umanis venerò. Lo ostinato cor superbo, lo ostinato.